non muore mai. L'amore è la luce che uno ha dentro di sé. L'amore è la luce che uno ha dentro di sé. L'amore è quando un cucciolo di uomo tra le mani risponde a tutto quello che non sai. E sai che in qualche modo ci sarai. L'amore è la luce che uno ha dentro di sé. L'amore è la luce che uno ha dentro di sé. Na na na na na na na na na na. L'amore è quando al centro esatto dei tuoi dispiaceri ci sta uno spazio di serenità. L'amore è quella cosa misteriosa in fondo ai cuori che ti fa parte dell'eternità. L'amore è la luce che uno ha dentro di sé. L'amore è la luce che uno ha dentro di sé. Accesi come fari nella notte del mondo, per le strade del mondo. Che mi portano da te. E ti fa gli occhi accesi come fari nella notte del mondo, per le strade del mondo, che mi portano da te, per le strade del mondo, che ti portano da me.